e parlo ma d'est una persona che le ramea pensce buona, visto che chi che n'ha depress le finì squartà come un pes. Vacca troia, che element, n'ha un fregui de sentiment, grosso e brut come un butris e tut piede cicatris. All'era un pirata, e il ghiera un cumbal che faceva pagura a Vardal. I somen ieren peggio de lui, e nisson svulzava ciapal per il cu. Gheren dal nom che il se meritava, per i sgarbelat che la faccia mostrava. In sé, in quel tempo senza motu scaf, e l'ac l'era in man al capitan Slaff. E il sotto tuac all'era un serpent con tiac che pareven ruent. E ghiera anche una scritta che faceva tremà, se chiami Slaff sul nasu per cupà. Vedisi mea che spuel, se un disgrazial incrusava il batel, tut l'equipage el tacava vusà, e a fan abrash come tanti guaguà, desfaven, cupaven, faceven razzia, tornaven in barca e poi naven via. Tu cava vedei chi spurce lent, a fan al curtel e per cupa gent, beveven ticos e ieren mai ciuc, e fan mea dicu se diseven chi buc. Su quel barcom che viaggiava tu stort, e tutta pezzata e crap de mort, ghera scriu a caratteri gross il nom del batel, ma scriu cun tios. Il nom del batel era mena concordia, ma proprio il contrari, e se chiamava discordia. Dedrea quella bisa del capitan Slaff, se scunt una storia, che gode cuntaf, se vero capì, la psicologia de un nom che l'anima l'ha data via. Prima de ves quel che le ades, l'era un fio che stava giù a Ness, l'era un fio come tanti genè, che viveva tranquillo, senza tanti perché. El se innamura de una certa Maria, il che disca la sposa e che il sia quel che sia. Maria de mestè preparava mistur, messe doz, conti piant, per ogni sorta de cur. Chi stava ma, el nava in della Maria, perché che era mea la farmacia. Ma una mattina la porta in via, da che nadì che l'è una stria. Omen, armà, venu de lontan, vestì de negro con la cruz in man. Pè, rui aven col vestì che l'usis, e il ghevusa de pentis. Pentis de cusè, rispond quella, che se ridrea preparare una camamela. Che cunt in sé una gran patafiada, in una lingua fin troppo complicata. La ligen a un pal in mezzo al paese, che fanno una mota de disprese, e tutta la gente che lei la curava, adesso era lei che picava e spudava. Dopo la porta in giù se la riva, i ghedan fuoco per brusarla viva. In mezzo ai fiam l'avete il som, con scia la barca che il rio ha de com. L'om sulla barca pietrifica, gaioc come marmo e la buca de sa. La donna vusa, Bertu van, ien tu ci invasà e san pie quel che fan. Scappa lontan e regordes de me, che son tre a brusà e so men al perché. El Bertu el pensa de diventa mat, el sente il cœur graffia come un gat. El tira un gigul che l'enna saeta, e in sé che il gigul che scriu, vendetta! Gentaia de merda, i brusà la Maria, el se ruftisch che l'era mea una stria. Vorreuf el diaul e i brusà le, ma l'era mei se brusauf me. Perché d'ora innanz chi me incontrerà ve garantisi che il creparà. Fardisci a sta faccia, vigliacchi, assassin, perché adesso el lac el venerà rus come el ven. Stasera i brusà la mia misericordia e presto savarì cosa l'è la discordia. E Bertu el tira fa un fulcen con tiaj cuz come spen. El se fa un tain sulla faccia e il vennanz la sua minaccia. Diaul, metteci a me ades e te fa un par de promess. Fan venì abbastanza fort de portà in gir la mort. Fan ves chi che veri ves e portun via l'anima con ti interesse. De quella sera senza stel le tacà quel gran macel del pirata e la sua banda e del demoni che gli amanda.